e ci parlerà delle sue numerose molteplici iniziative, poliedrico, Luca Panaro, lavoratore indefesso, comunque lui è di Modena, sono staccanovisti a Modena, io lo so perché sono di Modena. Ah, lo so, infatti, no, sì, non tutti però, però no. No, non tutti, alcuni fanno lavorare molto bene gli altri, però vabbè, questi sono discorsi che non c'entrano nulla, ma intanto ascoltiamoci magari una canzone e poi sentiamo Luca Panaro. Esatto. Salut, ça va? T'as vu, je suis là. Je suis rentrée chez nous, bah t'es déjà debout. Tu t'es inquiétée, mais j'avais pris les clés et j'étais pas bien loin. Et je savais bien que je reviendrais. Voilà, c'est fait. Salut, ça va? T'as vu, je suis là. J'ai fait des tours autour de la maison, fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond. J'ai shooté dans tous les cailloux des environs. Puis je suis rentrée à la maison. Salut, ça va? T'as vu, je suis là. Ne sois pas fâchée, j'ai fait du café, j'ai pris des croissants en bas en passant. J'ai fait mon petit tour, deux, trois fois rien. C'était pas fait pour que t'aies du chagrin. Salut, ça va? T'as vu, je suis là. J'ai fait des tours autour de la maison, fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond. J'ai shooté dans tous les cailloux des environs. Puis je suis rentré. J'ai shooté dans tous les cailloux des environs. Mais j'avais chaud dans ton blouson. Salut, ça va? T'as vu, je suis là. Oui, mon téléphone, il était ici. J'aime pas quand il sonne. Je l'avais pas pris, je faisais pas la gueule. Mais j'étais bien toute seule. J'étais bien toute seule. Allez, ça va. Je suis là. J'ai fait des tours autour de la maison. Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond. J'ai shooté dans tous les cailloux des environs. Et je suis rentrée à la maison. J'ai fait des tours. Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond. J'ai shooté dans tous les cailloux des environs. Mais j'avais chaud dans ton blouson. Plus jamais ça. Mais t'as cru quoi? Que j'allais pas rentrer? Que j'allais me barrer? Que j'allais en aimer un mieux dans la rue d'à côté? Bah non, t'inquiète pas. Y'a pas mieux que toi. Y'a pas mieux que toi. J'ai fait des tours autour de la maison. Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond. J'ai shooté dans tout. Siamo qui non in diretta ma insieme con Luca Panaro su Skype, che ci racconta innanzitutto chi è, cosa fa e perché. Luca, ciao. Sì, ciao, ciao. Allora, grazie dell'invito. Che cosa faccio? Adesso provo a raccontarvelo. Insomma, tra le mie attività c'è l'attività di insegnamento all'Accademia di Belle Arti di Brera e anche a quella di Bologna. lavoro come critico d'arte, curatore, in tutte quelle che sono le attività, insomma, connesse a questa strana professione. E ultimamente, diciamo che negli ultimi mesi, complice il lockdown e la necessità di rimanere in contatto con il mondo dell'arte, con gli artisti, mi sono anche un po' lanciato sulle attività video, dove racconto sui social alcune cose inerenti, appunto, gli argomenti che tratto normalmente della mia professione, e con un focus particolare sul libro. Stai un po' facendo concorrenza a Luca Rossi sui social? No, dai, addirittura concorrenza no. Con Luca, ovviamente, con Luca Rossi ci conosciamo e niente, no, ovviamente abbiamo delle aree di contatto su certi temi, però insomma ci muoviamo al di là dei social anche in modo diverso. Io devo dire che ho cominciato un nuovo corso chiamato Editoria d'Arte, e che era basato tutto sul libro d'artista, proprio nel momento in cui è cominciato il lockdown, per cui era da fare online, e tu nello stesso tempo hai cominciato a fare queste piccole pillole su Instagram sul libro d'artista, e mi sei cascato veramente a fagiolo, perché ogni settimana facevo vedere qualche tua pillola ai miei studenti, per cui ufficialmente ti devo ringraziare per questa cosa. Come ti è venuto in mente di usare Instagram per raccontare il libro d'artista? Ma guarda, era un'idea che avevo in mente da qualche anno, in realtà, da quando insomma ho iniziato a usare attivamente i social. Poi il tempo a disposizione è sempre poco, rimandavo di anno in anno la cosa, e devo dire che insomma tra le tante cose negative dei mesi che abbiamo passato, il tempo non mancava, e quindi ho deciso di sfruttarlo in questo modo. L'idea, più che altro, oltre alla necessità di raccontare il libro d'artista, che è un mondo tutto sommato sconosciuto, cioè conosciuto comunque soltanto a noi addetti ai lavori, e poi comunque è molto sfaccettato, quindi anche tra di noi casomai può diventare l'occasione di conoscenza di alcune pubblicazioni piuttosto che altre. La necessità, come accennavo prima, era più che altro quella di rimanere vicino agli autori, agli artisti, abituato come curatore a lavorare attivamente con loro, a sentirli tutti i giorni per organizzare mostre, talk, situazioni di vario tipo. Confinati a casa, non avendo più questa possibilità, mi piaceva anche mandare un segnale. Infatti tutti i libri di cui ho parlato finora su Instagram sono di autori che, bene o male, in qualche modo, chi più chi meno, conosco, le nostre strade si sono intrecciate in qualche modo, con alcuni ho lavorato attivamente, con altri meno, però insomma comunque sono nella mia area di interesse, e questo mi sembrava bello sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista professionale. Ecco, poi ci darai anche gli estremi per poterle andare a per poterle condividere queste cose, in modo che anche gli ascoltatori le possano sentire, però a me quando ti vedo su Instagram, sui social, colpisce molto anche il modo in cui tu presenti, cioè c'è una cura visiva del modo in cui tu presenti i vari libri, o è una cosa casuale che ti viene naturale, come l'abbinamento del tuo vestito con la copertina del libro? Non so, io ho notato un certo setting, però non so se è una mia deformazione. No, allora innanzitutto, chi volesse vederli, basta andare sul mio profilo Instagram, luca.panaro, l'indirizzo, ecco, a cui trovare queste informazioni, nella sezione IGTV. Lo specifico perché mi accorgo che molti si aspettano di vedere il post nel feed iniziale, nella pagina iniziale, cosa che c'è soltanto per le due anteprime, gli ultimi due, e poi invece cliccando sull'icona di IGTV si possono vedere tutti i video che attualmente, proprio oggi, poco fa, ho postato l'ultimo, che è il numero 50, quindi insomma sono 50 video di 50 autori, di 50 libri diversi, di cui ho parlato dai primi di marzo ad oggi. il setting, come dici tu, non arriva a tal punto, nel senso che mai potrei pensare di abbinare la mia camicia al libro. Però diciamo che un po' di cura formale ovviamente c'è, che non so quanto ve ne possiate accorgere, però è leggermente migliorata, perché uno dei primi freni che avevo nel lanciarmi in questa sfida era appunto come farlo, perché non sono tecnologicamente attrezzato per fare una cosa professionale, e oltretutto, avendo iniziato in quarantena, non potendo di fatto uscire di casa, ero in un angolino della mia abitazione con la luce che solitamente uso sopra la scrivania e nulla di più, e il telefonino per fare i video, ecco, quindi strumentazioni alla portata di tutti. Facendoli ho acquisito un minimo, dico un minimo perché ci sarebbe ancora tanto da fare, di dimestichezza da un punto di vista tecnico, quindi da un volto cadaverico dei primi video credo di essermi leggermente perfezionato, con una luce più neutra e via. Però questi sono dei dettagli tecnici che alla fine mi interessano fino a un certo punto, perché quello che volevo comunicare era una certa spontaneità, nel senso che non voglio nascondere il fatto che si vede la mano che accende la telecamera, non voglio fare dei giochi di camera particolari, uno perché non li so fare, due perché comunque non mi sembrava il caso in questa circostanza. Volevo semplicemente far vedere che prendevo un libro dalla mia libreria e lo maneggiavo così, con quella spontaneità che si può fare in presenza, e a volte mostrarlo a favore di camera, altre volte invece semplicemente parlarne. C'è chi mi scrivono, in molti, per varie ragioni, e molti mi dicono: ma vorrei vederlo tutto il libro, vorrei che tu lo sfogliassi a favore di camera. No, nel senso che non credo che sia quella la funzione, non sono un venditore di libri, e comunque il libro, se interessa, uno deve comprarlo per poterselo sfogliare e goderselo pienamente. Quello che mi interessa è offrire uno spunto che non è una vera recensione, perché in realtà io parto da concetti che sono contenuti nel libro, quando possibile da qualche chiacchiera con l'autore prima di realizzare il video, e poi lo utilizzo anche come occasione per estendere a un macro tema che mi interessa, che riguarda la mia ricerca. Quindi parlo del libro, ma il libro è anche una scusa per offrire all'ascoltatore uno spaccato sul mondo dell'arte contemporanea, in modo particolare sugli artisti che usano l'immagine. E invece questo, tu hai un altro account Instagram che si chiama Chip and Dale Studio, che è un'altra attività parallela a questa, giusto? Raccontaci sì. Di Chip and Dale Studio, di come funziona, che cosa fa e che cosa fate. E come è nato il nome anche, che è interessante. Anche. Certo, sì, hai detto bene, è una sorta di attività parallela, quasi di identità parallela, ecco, perché se come con il mio nome appunto svolgo attività, come dicevo prima, legate alla scrittura di libri, all'amore dei libri d'artista, i libri di altri, alla docenza, alla curatela, così, ecco, come Chip and Dale Studio, che è un progetto che è nato nel 2013, nasce come alternativa alla didattica accademica che svolgo comunque ufficialmente, con la possibilità di avvicinarmi a un pubblico differente, che possono essere anche sempre gli studenti nel post laurea, ma soprattutto professionisti di varia provenienza, che sono interessati al mondo dell'arte, non solo perché vogliono fare gli artisti, perché comunque esercitano un'altra professione, ma perché vedono nella processualità che sta dietro al mondo dell'arte qualcosa di interessante che indirettamente potrebbero portare anche dentro le rispettive professioni. Spesso sono architetti, ma alcuni lavorano anche nel mondo della scienza, piuttosto che del commercio o altro. Quindi mi interessava molto quello. Cioè, non parlare di arte soltanto tra di noi, come sappiamo bene facciamo, e questo è un po' il punto debole anche del nostro ambiente, ma parlare di arte all'interno di altre situazioni, e quindi capire come è importante la processualità per artistica per un architetto, per un biologo, per un consulente farmaceutico, per un ricercatore di discipline non visive, però che possono trovare nel visivo qualcosa di importante, di interessante, non solo per un arricchimento personale, ma anche professionale. Ecco, questo è il punto di partenza. Tutto questo nasce nel 2013 nel mio studio di Carpi e poi nel 2015 trasferisco il progetto a Milano per poi concretizzarlo ancora di più, sempre a Milano, dove tuttora si trova, nel 2018 con una sede autonoma e che di fatto è diventata una piccola scuola. Il nome è un po' particolare, tutti me lo chiedono, perché in realtà nascendo in questo piccolo studio che avevo a Carpi, dove tuttora vivo, avevo arredato questo studio solo con un tavolo in stile Chippendale, un tavolo diciamo importante da un punto di vista visivo, lo studio era tutto bianco e la presenza quasi inquietante di questo tavolo era protagonista dello spazio, un tavolo che tuttora appartiene a mia nonna e che a lei ora è tornato perché non me lo sono portato diciamo con me a Milano fisicamente, ma ne ho tenuto il nome e il logo dello spazio. Al di là di questo aneddoto personale, l'idea era quella che tutto doveva svolgersi intorno a quel tavolo e quindi per il numero di persone che solitamente sta intorno a un tavolo, cioè 6 persone, quindi 5 tra virgolette studenti più io. Infatti tutta la didattica che svolgo appunto all'interno del progetto Chippendale Studio è per massimo 5 persone, non per una questione elitaria, ma perché è un numero giusto per poter veramente dare qualcosa a loro e casomai ricevere anche qualcosa, cioè un numero contenuto che ci permette di instaurare un dialogo confidenziale, di portarlo avanti nel corso del tempo, di fare delle vere revisioni dei progetti che poi nascono intorno a questo tavolo. E per quanto il tavolo fisicamente non sia più quello, tutte le nostre attività diciamo si svolgono ancora in questa modalità, ma nel corso del tempo si sono espanse perché non ci sono più solo io a insegnare, ma ci sono collaboratori, ci sono artisti, direttori di museo, curatori, archivisti che una settimana sì, una settimana no vengono da noi e ci raccontano la loro esperienza da professionisti a professionisti, e questa cosa è un altro valore che non volevo fosse un'eccezione come a volte capita in accademia, che ci consentono di invitare una persona o due all'interno del semestre, ma volevo che diventasse un'attività continuativa. Noi abbiamo sempre un confronto con altri e che proprio venendo da fuori ci permettono di rimanere coi piedi per terra e casomai di non lasciarci prendere da elucubrazioni che possono nascere all'interno di un piccolo gruppo. Bene, ti ringraziamo perché il tempo a nostra disposizione è abbastanza poco, ma io ti volevo fare un'ultima domanda rispetto alla divulgazione dell'arte contemporanea, perché vedo che anche tu sei uno di quelli che ci tiene a fare che l'arte contemporanea venga divulgata in maniera semplice, diretta e fruibile. Cosa possiamo fare secondo te per migliorare questa situazione? Perché come sai in Italia adesso siamo veramente ai minimi termini in questa situazione. Sì, dici bene che in effetti è un punto dolente, insomma, la divulgazione. Io ci credo molto, ci ho sempre creduto e cerco di utilizzare tutti i mezzi a disposizione. Io ho iniziato e tuttora continuo con la scrittura, una scrittura che non vuole essere quella classica dei critici, cioè incomprensibile o solipsistica, ma vuole essere divulgativa, facendo attenzione però anche all'utilizzo di questo termine. Divulgativo non vuol dire, come dire, fare l'imbonitore televisivo o quelle cose raccapriccianti che si vedono sulle reti televisive nazionali di arte o quelle poche informazioni che si vedono sulle riviste generaliste, che sono veramente di una divulgazione spesso becera. Divulgazione vuol dire approfondimento, contenuti, tenere il livello alto, però renderlo anche accessibile con un accompagnamento che non sia una tantum, ma sia sempre presente o sul web o attraverso la lettura o attraverso l'insegnamento, che possa veramente accompagnare in un percorso che sembra facile ma è difficile nella misura in cui serve continuità e servono tante guide, non soltanto unica. Io infatti non ho, come dire, la presunzione di poter essere quello che compie da solo questo percorso, ma cerco continuamente una concertazione negli altri, che a volte incontro, altre volte ti confesso che invece vedo che si chiudono delle porte, perché quando si parla di spiegare veramente le cose, di farle capire veramente, non solo questo presuppone averle capite in prima persona, e non è proprio così scontato che sia, ma vuol dire anche essere in grado poi di trasmetterle agli altri. Quindi più che di divulgazione, così forse preferisco parlare di trasmissione, non tanto di un sapere, ma di un avvicinamento alla materia, e una volta compiuto questo, poi il singolo riesce autonomamente a muoversi all'interno appunto di questo mondo apparentemente criptico, ma in realtà una volta fatto il passo assolutamente affascinante e travolgente. Beh, direi che anche Luca si è guadagnato dei bollini Coxo. Cosa dici? Ah, è vero, sì, che hai ormai questa cosa, sì, dei bollini Coxo. I bollini Coxo sono dei bollini che noi, di cui noi facciamo omaggio agli intervistati, che sono un po' sui nostri cavalli di battaglia, che sono, direi, tutti quelli che hai detto, perché l'insegnamento, infatti, l'allargamento del discorso, l'orizzontalità, e quindi dai, quattro bollini glieli possiamo dare anche a Luca. Glieli possiamo dare. Li accetto volentieri. Grazie mille, e ti aspettiamo in studio quando Radio Città Fuggico riaprirà le porte agli ospiti, ok? Sicuramente, grazie mille a voi. Grazie. Ciao a te. Luca. Ciao. Ciao, ciao. Yes, I'm calling about the Mail Art Project, John Foster. And so, yeah, I used to do mail art back in the early 80s. Did a few things, and then kind of got away from it. Life happens, and got back to it about a year and a half ago. And I started out doing Adam passes, because I thought, well, that would really be great. It gets the creativity flowing. It's something you could do very fast and get it out the door. And I was, you know, really excited, you know, for about the first month. I started sending out my own. And I guess I sent out about 150 of my own art add and passes within 6 months. And I didn't receive one back within a year. And so that got really discouraging. Plus, I was getting stuff from all over, and it just, I don't know. So now I like to do collaborations with like one or two people. And I think, to me, that's more satisfying. I mean, I still do an occasional add and pass. They still, even though I've requested not to get any more, they pop up here and there. And some of them, you know, I might cannibalize and use in my own mail art that I send out. And others I just like, I let them, you know, build up, and then I'll send them to people that will work with them and send them on their merry way. Yeah, add and passes. I mean, I hope they don't die. And you know, and it's fun if you get in a network of, you know, people that you can bounce ideas off of and stuff. That's really cool, and I like the idea of connecting with people all over the world. Another fun thing I like to do with mail art, I like to participate in the mail art projects, and especially, and this doesn't happen, I understand now, much, is when people document. Okay, this one cut off. Non sappiamo cosa dire. fuori porta. E dunque anche oggi c'è la rubrica fuori porta? Ormai c'è sempre la rubrica fuori porta. Da quando abbiamo chiamato qualcuno da fuori porta, la rubrica fuori porta ci sta. È diventata quasi la colonna portante. No, però adesso andiamo fuori porta, ma poco. Ma poco. Perché siamo a Modena. Perché fino a Castelfranco Radio Città Fujiko si sente, ma dopo no. No. Dopo viene contrastata da una radio che parla sempre solo di sport, per cui... Ah, caspita, sono così fanatici sullo sport nel modenese? No, non lo so, cioè sono le frequenze che sono così. Vabbè. No, niente, noi andiamo al villaggio artigiano, un posto che ti piacerebbe, si chiama Ovestlab, ma poi non ne parlo più di troppo perché sennò... poi che cosa dici cosa dicono nella dopo, registrazione? Esatto, appunto. Quindi lasciamo un attimo lì a posto in così, amici come prima. Amici come prima. State sentendo le sonorità di Ovestlab. Federica Rocchi. Federica, dici cos'è Ovestlab? Allora, Ovestlab è un'ex officina artigiana che si trova nel cuore del villaggio artigiano di Modena Ovest. È un quartiere di Modena dalla storia davvero gloriosa e molto, molto interessante e molto bella. E oggi un quartiere che vive delle fortissime trasformazioni come tante aree ex industriali, ex artigiane, insomma, ai giorni d'oggi. Quindi Ovestlab nasce come spazio di presidio, come luogo pubblico, e che cerca di, insieme alla comunità di persone che abitano in questo quartiere, di reimmaginare dei possibili futuri per questo pezzo di città, per le sue dismissioni, per i suoi spazi privati chiusi, per i suoi spazi pubblici, per i suoi legami anche appunto di comunità in qualche modo che ancora sussistono, e lo fa attraverso soprattutto i linguaggi dell'arte che sono quelli che pratichiamo, insomma, che sono... Ma quanti anni è che resisti in questa attività? Perché non sono pochi, secondo me. Allora, Ovestlab in realtà è un'avventura relativamente recente, perché nasce nel 2017. Tutte le azioni di Amigdala, diciamo, della nostra associazione legate un po' alla riattivazione dei luoghi nascono in realtà molto molto tempo prima, nel 2008, quindi Periferico, che è il festival, uno delle azioni che si svolgono a Ovestlab, ha 12 anni, quindi sì, in effetti ha tanto tempo, però il radicamento qua è stato un po' più recente. Siamo passati così da questa prospettiva molto nomade di esplorazione della città, di cambiamento di spazi ogni anno, di... ha una prospettiva un po' più stanziale, però mantenendo uno sguardo molto nomade e molto temporaneo. Quindi ecco, MOP è una di queste... MOP sarebbe Modena Ovest Pavilion, che esatto. È un padiglione tipo biennale praticamente. Esatto, uguale, identico, solo che ha come logo un moccio video. Creatività generica. Non sapeva dirmi minimamente in che ambito si trovasse questa figura. Quindi ho detto, cosa, un papa? Dice no. Uno sportivo? No. Ho detto, un giurista? No, giurista. Ho detto, un politico magari? Sì, sì. Allora dico, democratico o antidemocratico? Dice, democratico. Stavamo parlando di Mussolini, era una domanda fatta all'esame di maturità a un ragazzo che evidentemente non aveva le idee chiare sulla storia del Novecento. Va bene Marchetti, ma parliamo di arte, cosa siamo qui a fare stasera? A parte mangiare e lamentarci della perdita di memoria storica. Allora, siamo qui per Tableau Vivant, che è un progetto di Chiara Ferini e Alessandra Zagni, all'interno del bando di MOP, gestito quest'anno appunto dal gruppo che ha a capo Isabella Bordoni, che è focalizzato sulla rigenerazione del quartiere artigianale. E grazie Isabella, che mi ha coinvolto come sparring partner, diciamo, del duo delle artiste, invece anch'io sono entrato in contatto con questa realtà e adesso ho il piacere di essere proprio qui a gustarmi un goccio di Lambrusco, Chiarli per la precisione, e di Piadina. Questo è Massimo Marchetti. wish I could write songs about anything other than death. I can't go to bed without drawing the red, shaving off breaths, each one so heavy, each one so cumbersome, each one a lead weight. Are you okay? Should I go somewhere else and hide my face? A sprinter learning to wait, a marathon runner, my ankles are sprained. A questo punto non ci capivo più niente e sono andata a parlare con Isabella Bordoni. Avevo bisogno di una mappa concettuale. No, mamma, no. No, avevo bisogno di una sintesi perché in questo luogo capitano così tante cose che secondo me gli ascoltatori di Cox non hanno capito. Allora, innanzitutto c'è Modena, poi c'è il villaggio artigiano, Modena Ovest. Poi dentro al villaggio artigiano c'è Ovestlab. Ovestlab è un contenitore culturale che agisce durante l'anno una serie di iniziative, tra cui io direi veramente quella pregnante è il Festival Periferico. E il progetto nuovo che è esordito l'anno scorso e che si sta concludendo in questi giorni è MOP. Ecco, e quindi questa è una delle mostre, è la mostra conclusiva. Questa è di la MOP. Residenza finale e l'incontro conclusivo, è la mostra conclusiva di MOP. Quindi sarà ancora MOP in quanto edificio MOP, però non sappiamo se ospiterà delle MOP mostre. Perfetto, effettivamente bisogna dire che quello che è accaduto, e cioè questa cosa che si chiama pandemia, ha cambiato delle priorità secondo me. E quindi è da capire. Stefano Lodi, sì, che è un artigiano, un vero artigiano del villaggio artigiano. Esatto. Artigiano in? Io ho un laboratorio di ceramica artistica. Ed è attivo tuttora? Sì, è attivo, cioè attivo è una parola grossa. Ci sono operativo. attivo un po' meno. La mia attività, io ho iniziato questa attività da pochissimo perché sono operativo qua al villaggio da aprile 2018, quindi un anno e mezzo. I miei genitori avevano la tabaccheria al villaggio e io sono nato in via Scani e ho lavorato con Carlo Spiga, che è questo artista che ha fatto il secondo residenziale, e abbiamo fatto questo bellissimo lavoro con gli studenti dell'Istituto d'Arte che consisteva nel creare, cioè l'obiettivo finale era creare delle candele con delle forme ispirate alle architetture del villaggio. Alessandra Zagni, Chiara Ferrin. E avete fatto? È una proiezione del lavoro, dell'esito della residenza presso il MOP e si chiama Tableau Vivant. quindi noi vedremo una proiezione, sì. E chi vuole venire anche l'11, 12 e il 18, 19, ho detto bene le date, beh, poi magari le controlliamo meglio, vedrà la proiezione nella vetrina del MOP al piano terra sulla strada, ci sarà la proiezione in loop dalla sera fino a mezzanotte. Paesaggi spaventosi. Qual era la domanda? Scusa? No, che cosa, cioè, cosa vedremo stasera? Vedremo una sequenza di fotografie scattate negli spazi esterni del quartiere, del villaggio artigiano, diciamo nei margini di un quartiere che è già periferico di per sé, quindi... Alla periferia della periferia. La periferia della periferia, esatto. In questi spazi sono stati individuati 5 o 6 stazioni, diciamo così, per allestire un set, un piccolissimo set approntato con dei materiali di risulta, quindi non so, un tappeto, una sedia, due stativi per un set fotografico e un telo dipinto. Su questo telo dipinto una delle due artiste, Alessandra, ha realizzato una specie di boschereccia dal mio punto di vista, io l'ho interpretata in questo modo, come la boschereccia della tradizione pittorica bolognese, che si staglia appunto... Grazie per aver citato Bologna, sai che gli ascoltatori di Cox ci tengono, ma perché io... faccio sempre delle trasmissioni che non sono mai su Bologna e allora ecco, questo invece zac, proprio cade nel fagiolo. E sono stati invitati alcuni abitanti di questo villaggio o di persone che comunque ci lavorano a far parte di un tableau vivant, cioè di un quadro vivente. Quindi si sono inserite all'interno di questo set e sono state fotografate. Allora, questa è una modalità di ritratto che deriva già dall'Ottocento, cioè quella di ricostruire in studio ovviamente un ambiente che era completamente diverso. Quindi sono sempre dei ritratti, ma dei ritratti che non nascondono, non riescono a nascondere invece la desolazione del contesto in cui vengono calati. Quindi diciamo che il focus, il cuore un po' di questo lavoro che dovrebbe saltare agli occhi è proprio il margine che viene lasciato libero tra questa rappresentazione di una foresta, di un luogo esotico e tutto ciò che c'è dietro che non viene assolutamente coperto, ma anzi... annulla quel tentativo di illusione, quel tentativo di fuga. Ho la sensazione che in questo attraversamento di Ovestlab, che è un luogo estremamente poliedrico, siamo stati forse un po' evasivi sulle informazioni pratiche, quindi le riassumo qui nel caso che qualcuno si fosse incuriosito e volesse visitare il villaggio artigiano di Modena Ovest e il Modena Ovest Pavilion. Le informazioni generali su Ovestlab le trovate sul sito internet www.ovestlab.it. La sede di Ovestlab si trova in via Nicolò Biondo 86 a Modena, mentre la proiezione di fine residenza di Alessandra Zani e Chiara Ferrin è ancora visibile il 18 e 19 luglio dal tramonto a mezzanotte. Se decidete di andare a fare un giro per il villaggio artigiano, vi consiglio di provare a scrivere a info@ovestlab.it o di provare a chiamare il numero di telefono 059 877 77673 per avere informazioni sull'eventuale possibilità di visitare anche l'interno del Modena Ovest Pavilion. Su questo non garantisco, però all'interno ci sarebbero teoricamente ancora le bellissime candele di Carlo Spiga, che era la residenza precedente. Terror from outer space. Grazie Chiara per questo fuori porta su Ovestlab, devo dire che anch'io ci ho capito abbastanza poco. Comunque adesso vado anch'io su www.ovestlab.it a vedere cosa succede lì dentro. Thank you. Nel frattempo volevo dirvi che questa musica di sottofondo che avevate sentito anche prima in varie canzoni e che sentite in questo momento è il nuovo disco di Ivano Leva ed è un disco di musica diciamo classica moderna. Si intitola The Rain of October, la pioggia di ottobre. È un lavoro la cui esegesi va ricercata nella verità straziante di un anno, il 2019, nel quale per ragioni personali, scrive lui, ho conosciuto il punto più basso della mia esistenza di individuo, un autentico pugno nello stomaco che mi è letteralmente esploso dentro, un flusso di scrittura dei brani incredibilmente concentrato in pochissimi giorni. Questo è l'introduzione alla cartella stampa di questo nuovo disco che è uscito, registrato e mixato da Carlo Gentiletti agli Helios Studios di Napoli, in cui appunto Ivano suona uno Steinway Model 274, gran concerto, piano da gran concerto. E ringraziamo naturalmente Francesca che come al solito ci manda tutte queste chicche musicali e andiamo avanti con cose che ci manda Chiara su WhatsApp. Adesso non ho capito bene cosa sono. Pensando un po' al tenore di questa trasmissione, ti propongo la parola dismissione di Nicola Bertuccio, perché secondo me in questa puntata siamo stati un po' più tranquilli del solito, forse ci siamo spostati troppo nelle settimane scorse. Comunque, la dismissione è perdita, abbandono, assenza, solitudine, ma allo stesso tempo è anche un'opportunità, l'opportunità di reinventarsi, di essere qualsiasi cosa, è la fine di un ciclo, ma porta con sé tutte le possibilità di un nuovo inizio, perché può diventare un rifugio per le specie viventi che non trovano posto altrove e che del dismesso fanno la loro casa. Io me la immagino così, come un'immersione nell'oscurità dell'oceano, l'oceano come un grande grembo materno in cui il tempo sembra rallentare, le forme da fuori si fanno meno definite, le funzioni perdono i loro limiti e la riemersione diventa una luce lontana a cui guardare con speranza. La speranza di tornare a nuova vita riappropriandosi della propria dimensione e relazione fisica con il villaggio. Ecco, noi siamo tornati a casa, forse ci manca il grembo materno del mare e siamo un po' dismessi. Non l'ascolterò mai. Allora, come diceva sempre mio nonno, il verbo non capire è un grande verbo. Il verbo non capire è un grande verbo. Eh sì. I can't make real life as good as television. One shoe on and one shoe off, and I can't pick a position. I sat the VCR to record, rewind and fast forward. I got out all the bad parts. I don't wanna watch anything that hurts. Anything that. Mm-hmm. plastic. Couldn't decide what to give, so I left you the facts, and that's it. Now you know what's in me. All the bad parts, I don't wanna watch anything that hurts. Anything that. È finita la 319esima puntata del Cox, è stato un piacere vederti dal vivo, Chiara. È finita in fretta, comunque il tuo divano è molto comodo, devo dire. Mi fa piacere, più comodo delle sedie dei Radio Città Fujiko. Forse sì, anche se non cigola, e questo è un po' un peccato. Eh sì, effettivamente delle cigolature ci vogliono sempre, soprattutto in Cox spaziale. Eh sì, così non devi farne anche lo sfondo. E dunque salutiamo anche Gabriele Ghedini, che questa volta magari ci voleva invitare a bere uno spritz dopo la trasmissione, ma questa volta non siamo dietro a casa sua e non siamo in presenza, per cui bisogna che ce lo scriva in assenza, però secondo me si potrebbe anche fare. Si può fare magari quando torniamo in presenza verso la fine d'agosto, no, verso dopo metà agosto dovremmo essere. Abbiamo già traumatizzato così gli ascoltatori che fino a metà agosto siamo messi in questo modo. Ma sì, ma tanto per gli ascoltatori non cambia molto, cioè cambia molto solo per Giffo, che ci vuole scrivere e vuole che noi leggiamo i suoi messaggi, ma ahimè non lo possiamo fare perché non siamo dal vivo. Esatto, beh, allora scusiamoci con Giffo e niente, aspettiamo l'invito. E questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini e Chiara Pergola, e come al solito ci risentiamo lunedì prossimo a sempre alle 19, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao. Ciao. Vai. Visto che tra l'altro una parte della puntata è stata fatta sul divano di casa tua e che oltretutto mi hai cassato la proposta che avevo fatto settimane addietro di un pezzo di Frank Zappa, ti proporrei per questa chiusura Sofa Number One da One Size Fits All, che ha proprio un bellissimo divano in copertina. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.